per farmi i capelli da un bel barbiere di Siviglia. Sono riuscito perfetto, va benissimo. Io faccio i capelli corsi e caspita, c'è i corsi capelli, io vado, se trova bene, se non voglio vado martedì, adesso vediamo. Se non c'è nessuno, martedì le taglio 2,50 euro e già va bene, avanti Emanuele. Grazie, 2,50 euro. E sapevo quanto, la riga e mezzo. La riga e mezzo a viraggio, lo confondiamo, vedi? Faccio corsi, andare. E allora tu dici, ma ancora Mattia, se no? No, finito oggi, se vuoi dire rientro. E cammini 3 mm, me la fate Emanuele, mio figlio. Già, da lei. Ma la macchinetta avete fatto? Certo. Già, va bene, là. Anda bene. Così bravo sei Emanuele. Me la faccio, va. Vabbè, mi sta facendo una cattiveria, ma non la posso dire, la pressione, là. Poi diventi faccio rosso e mi tocca emozionarmi, avanti tu. Cappa, ho portato la macchinetta io, che è una macchinetta che l'ho pagata 26.500 euro. Caspita, quanto sei carino. Sì, ma sei carino, hai visto quanto è carino tuo padrino, Manuel? Avete un po' la cura, con le belle fatti. Prima parliamo visto, Maria. Maria di Cricetta, di bianco. Di Cricetta, Maria, A catturare devi andare. Ma domani mattina? Domani mattina? Vabbè, in settimana, quando vai in qualche scuola, catturi le maestrine, capito? No, veramente, è successo questo. Io sto amicizia una persona su Facebook. Parlando, mi ha chiesto il mio numero di telefono, io gliel'ho dato, mi ha chiamato alle 11:30 del mattino e mi ha detto, perché non vieni domenica mattina, ti spendi il caffè, anzi vieni, pigliamo il caffè, ok, anzi fa una cosa, vieni a casa mia per il caffè, e allora, guardi, ti metto un vinizio già alto qua, ti metto, non ti spaventare se mi vedi in pigiama, no, preoccupati, sei già pronto. Ah, maledetto, ascolta a me, non è che sapevi fare tu, ma non qualcuno c'è da solito, no? Sì, a me lo sì. Ok, dai, diamo dici questo qua, dai. Così a me la mattina mi viene meglio, capito? Io lavoro di quella zona e nessuno mi vede alle 5. Ma vediamo, se trova bene non te lo dico. E se non mi piace tremando, te la mando. Alla prova ti fa un guglio, vedi Emanuele? Che amico, eh? Prima che non parlare così a me. Prima mio figlio ce l'hai. Vabbè, no, metto il risposto, tu già lo sai. Prima Emanuele, poi vediamo, dai. E io uso la scopa, capito? Vediamo come funziona bene. No, perché voglio andare se fa la licenziata bene, capito? Tutto qua, avanti Emanuele. Al centro su, ma come si chiamano tui? Tu vuoi sapere troppo. Ma come si chiama Monica? No, assolutamente. Di Monica c'è una sola buonata pure. E alle 8 devi venire qua. Andare, vai Maria. Alle 8 devi venire. Allora Emanuele, vengo di passo, ci andiamo. Maria, ma dove la tua sì? E allora dove sono? A casa? In un bunker sono sotto. Ah, per quello che parli così? Accio, attenzione che tu vuoi dire ad Aletri che tu vuoi essere luce a capo me. Lo so, sono sotto in un bunker. Voglia, già lo sai tu che io sono un ragazzo quasi per bene. Sono un ragazzo quasi per bene, queste cose non le faccio. Vero Manu? Ma vedi lo casco, bravissimo, ma si sa mai Mario, prima che ti scurica anche il colpo di luce dalla rito. Eppure ho detto quasi per bene. Allora devi capire una cosa, Mario, io sono single. Io posso fare tutto quello che voglio, io sono a casa mia, fanno le cose bene. Ti faccio tutti i servizi belli, ti faccio una doccia insieme, poi c'è quella che trova fuori. E piano piano mi tocca già cambiare l'uso alla macchinetta. Lo so, ma sono, sai che provare quello col ghiaccio, ti prendi un bel coso di ghiaccio, no? E glielo faccio addosso piano piano, prova quell'intimo se ti piace. Ma le vostre che cazzate io, ma io mi faccio la panna montata, poi piano l'ecco, la rotella, che così quando non c'è però è tutto pulito sotto. Senti Emanuele, senti. Cazzo, lì già li piace. E così mi pulire la rotella, no? È buon gustaglio, sì, male. Io andiamo già, Tony, non vado a sciacquare, finito tutto lì, nessuno se ne abizza. Mi sono chiamato al telefono, un attimo. Vai, Mari. Vai, sbaglio. Così è. Ha sentito Padrino, tu, Bartolino, Manuel. Così dobbiamo fare. È la giura. Anche tanto, sempre con una volta solo, Mario. Bisogna farlo, se no la puoi sopportare. No, la puoi fare, io fai nulla, sono quattro di là, se ne ho preso. Faccio per sì. Appunto, se non lo fai, se non lo fate nella crisi. È isso, ha messo l'acqua stanotte? Io ho preparato anche la benzina, già preparata, già messa la bottiglia. E domattina, dove devo che ho fatto, dopo una bella passata, verso le 9:30, è vista, sennò mi sono un dormitorio qua in, a fianco a me, ci abbiamo, capito? Va bene, aspettiamo i confinanti, dai. 9:30. Un'ora qualcosa già venuto, mi hai compreso. Devo passare un po' anche qua in giardino. Devo dare una passata, certo è già cresciuta, no? È stato da passata a me, Emanuele, abbassa, ci vediamo, abbasso un pochino da altra parte, così funziona, funziona il mio genere, non faccio nulla, mi attacca la sarebbe, la faccio la sarebbe, io faccio gli angoli con il respiratore e mi faccio l'ingresso. Così la abbasso lentamente, unica altezza, là. Ho capito. Tanto adesso con questo cavolo di acqua e sole so come cresce l'erba. Io vabbè che l'ho fatta, sarà due mesi fa, però vedi ancora non è alta, però è da passare. Se la sposto là, anche a me ha sollevato come ancora, sollevato, è sbagliata, ha fatto l'acqua, va bene, tipo con me, l'ho preso là. E così Marino. Adesso me la stai usando, Marino? Per la parecchia ho dormito, sto usando, va benissimo, dai. A metà l'ho lasciato. Stai usando il K? Allora, a metà però. Esce bene, vai Tony. Cose che avete detto, ma per la mia scienza, ti ho sentito qualcosa? Non ci permettiamo di parlare dietro male, le cose se le diciamo te le dico in faccia, non la parecchio, in faccia, almeno ne possiamo parlare, così si può dire dove abita quella persona, vero Emanuele? E allora, cazzo, ma non lo so io, Tony. Ma ho sentito qualcosa che mi dire a Marmene che ha detto, ora fatti me, tanto è 5, giusto? Giusto, è giusto così, Tony, io ti ammiro, sei single per fare come vuoi, non c'hai cose, diciamo, va benissimo. Io non posso fare, vedi, io ormai, non ormai, non posso fare. Dai, io fin quando me la sento poi mi sistemo anch'io fisso, dai, o ritorno con la 50 oppure mi metto con un'altra fiscia, non so, la voce è ben buona. Quando tu te la senti, sai la fai, ti compri un vaso di catalizzatore, tipo quello nel carrozzino, con le rilevamo, la passata e si è a posto, vero Manuel? Ma così. Grazie, tutti in PML, Gian Maria, Dore, Sì, tutti in PML sono, Marchisio. Ehi raga in PML, grazie casi dai occhi. Ho iniziato di sfoderare anche questo canale. Ma come mai i mariti si è commasso di radio? Perché io sono piccolino, sono piccolo. Passo di radio? Mi sono sottomodulati, aspetta un attimo. Guarda adesso come mi sente, Tony. C'è leggermente saturazione, però non è una voce come quella di Emanuele che è proprio squillante. Vabbè, io sono nuovo perché non mi sento bene, Tony, capito? Non mi sento bene. Fa da bravo. C'è le mie cose, scusa, non c'è le cose, scusa. Dillo tutto Emanuele. È influenzato Marino, Tony. Ma a parte gli scherzi, com'è questa modulazione con questo microfono, Tony? Questa è nausina e non mi piace niente. Invece è migliorato il microfono che c'hai tu. Lo so, per quello che l'avevo da fare. Però c'è la manda c'è un naso, cioè. Dice che è nausina. Se non c'è la manda c'è un naso. Sì, perché l'altro gliel'ho dato a Torino a controllare quel carretto. Andiamo, avanti, Tony. Così te faccio di nuovo lo spinotto. Dammi un minuto, retro subito. Siamo qua. Ok. E così, Mario. No, infatti questo qui lavoro l'ho fatto per quello, perché mi dicevano che usciva la macchina come modulazione. È per quello che l'avevo levato e ho messo l'altro. Non sei da Gio Maria, sto fondo. Se metto l'alternatore arrivi 9,80. Cosa? Se attacco l'alternatore arrivi 9,80. Ma lo posso immaginare. Con l'alternatore di antenna, sì. Il preampi di antenna. Andare. Va benissimo. Comunque con la radio va bene. Li devi... è che non ce l'hai l'MP4, ma se no l'MC60 ci va una camata con la radio lì. Come si va più bene, ma non è la voce? Basta tutto, mi stai facendo dormire. Va bene, ma non è. Cazzo, a giovane cazzo invece la colonnina. Ma alzati in aria. Alla fine sul microfono, di la verità, Mari, dai. Bello è, bello forte. È fortissimo, Tony. Con il tuo fotone nero. Super, come cavolo si chiama. Sei ricca. Va bene. Ma no, io non ho più quattro ce l'ho qui. Ma fai solo il pilota, se va bene. E perché non farà l'attacco? Grazie, vediamo, stiamo un po' spinotto e faccio l'attacco, una divisione, diciamo, là. Ma se con l'MD più 4 dovrebbe uscire bene lo stesso, E adesso vediamo, là. Torino avanti. Cappa, dai, sono tornato alle vecchie origini. Va benissimo. Stai usando la Galaxy anche lui, Mari. Io lo so, un bel microfono, che bello, bellissimo. Sì, in effetti si sposa bene, hai. L'ho sempre saputo questo. Sì, va benissimo, proprio adatto, avanti. C'è qualcuno, buonasera, avanti della buonasera. Sei molto basso, ci allenati un po', Io non sento nessuno. Uno basso, ma negativo, non ti ascolto più, c'è proprio 0-0-0, avanti, non è. Che non è per una nota, fai nella zona tua. Proprio 0, segnale 0, ma non sentito un po' in radio. Avanti, prova un passaggio. Negativo, non riesco a ascoltare bene. No, aumenta qualcosa, se è negativo, non ti ascolto. Ma non è che fa parte della banda Massotti? Io non ho detto ma quello Smith si alza. Io non voglio guardare sempre così, fate un conto. Forse la banda Massotti, tu hai ragione. No, sentivo la monarchia, ma lontano, segnale zero, capito? Io zero, nada, di nada, di tutto, né segnale, né radio, nulla. Com'è il segnale mio, Tony? Cosa? Il mio segnale quanto è? Prova. Guarda in questo passaggio, 1, 2, 3, prova. Tu sei 9,15 qua, perfetto, radio 5, buono dai. E io 9,15? Ammazza, 9,30. Tu già fianco, dottor Paolo Manuel. Come te ne voglio, Manuel, dai? Con la scala che tu. E la radio com'è, 1, 2, 3? Bella forza con la radio, bella forza, proprio fortissima. E beh, sta facendo con la commissione la risolta con la faccenda. Quale? Con la faccenda che abbiamo parlato quel sabato. Se ricordi, era la maniera. Non me la metto. Ma per mezzo della 50? Un po' in parte sì, mi è successo un po' di casino più forte da poco e io penso che abbia compreso. È la ora. A chi se lo comprende può pisare la prima, l'utente con la giusta. La macchina può pensare. Avanti, non è. Ma guarda, sinceramente, Marina, non è male la pena, che cazzo li conosciamo, la potete denunciare. E passi casino, dalla ragione passi al tortolo. Ma lui, amico tuo, ce l'hai su Facebook. Ma non è lui, io, allora, ti ricordo il giorno che ti ho detto, è lui Giuseppe, e tu mi hai detto, no, non è lui. Sì, ma la foto che c'è tu su Facebook è quello che abita lì. Non mi ha capito, quello che gli hai detto dello schiaffo, che gli hai detto cosa? Tu mi hai detto che non era lui. Quello che è passato lì alle maledetta, no. Però tu questo qua ce l'hai su Facebook, quello che abita, dove abita la 50, ultimo piano. Certo, quello che c'è su Facebook che mi ha detto che lui è quello che è passato, e tu mi hai detto di no. Ma io mi sono sfuggito, amico, non ho visto bene faccia a me. Poi barbetta non ne ha. Che barba non ne ha? Cazzo, è capilucido. E penso, ti faccio vedere di nuovo la foto che c'hai tu. Ma quindi si chiama lo stesso nome e cognome. Può essere, boh. Già ne so, qui, Allora chi è il tipo che mi ha fatto venire giù? Ti ricordi il giorno che stava scendendo il sabato, Marì, al circo? Che stava scendendo quel ragazzo e l'ha salutato? E l'ha cattato. E io lo so che si va uno schiaffo, Manuel, lo so. Ma non sei per me che fare quella cosa che fa sta facendo. Non sei per me neanche scherzando. Io l'avrei tentato fuori, lontano, un po' lontano, di casa per la sua. Un cosa in capo, è ciccia, cosa la si fa, è una bella sussa, basta non farti conoscere, non hai capito? Comunque, non voglio vederla questo qua, non voglio vedere, sono curioso a vederla questo qui. Già, te lo faccio vedere. E poi vediamo, se lui o è un altro. Che abbia lo stesso cognome, così, e nome. Poi Claudio. Ciao Claudio. Buonasera a todos, ciao Tonino, Ginco e Marino mi sembra, non c'è altro nessuno. No, siamo solo noi. Buonasera Claudio, ben entrato. Soli soletti, Claudio, amati Tonino. Gaffa, soli soletti, sì, solo noi siamo qua. Amateci come. Comunque, sono curioso a vederla, Vizio. Sono curioso a vederlo, perché io ti ho detto se era lui, tu mi hai detto di no. Questo papà non mi ha mai portato. I capelli, lo sai, come ce li ha a zero, e papà non li ha mai avuto. Questo ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Ok, già te lo farò vedere, c'è problema. Avanti Claudio. Ehi dai, sono entrato solo per farvi un saluto perché mi sto preparando per andare a portare il cane, eh. Non sapevo che eravate qua, era un ascolto su 10, è in PMR, non sapevo che eravate qua, va bene, vi ascolto volentieri, se ci siete riprendo dopo al limite, avanti Marì. Benissimo Claudio, ti ringrazio, ottimo. Manuele, ti sto dicendo, non si va lo schiaffo se quel tipo che abbiamo visto assieme, ma io cosa fai l'avrei fatto? Lontano la casa sua, non su se ti viene andato. Che devo fare certe cose che se permette dalla signora e dalla ragazza, ma buffonete, ma avanti Manuele. Sì, ma no, non penso che sia lui, dai, non penso che sia lui perché lo conosco bene. E non penso che sia lui. Perché se lui, che un giorno che me lo fa vedere Tonino, che lui, allora vedete con quattro, ha detto. Sarebbe chi lo ha posto, lo fermi e ne cambi con quattro, anche cinque. No, ma non è lui, dai, mi sembra strano. Che lui, le tue parole le avanzate lì, perché lì è la peperina, non lui. Si avvicinava a me come per dire dammi uno schiaffo, ma io non mi ammazzo di uno schiaffo alla donna, capite? Poi lui ha letto la vita, e lui zitto, non combacio, solo vicino vicino, porta della testa da bocca. Però lui non parlava, ero zitto, ma chi ti mia un bene. Ah, vedimo. Dai, mi dice lui. Dopo vedimo. Ma sono perplesso ancora. Cazzo. Che non riesce a venire la ghiaccio. Un attimo, mi sposo che voglio che sia terminato la pasticcia, 2 minuti, dai, penso lì. Avanti Claudio. E si è sentata a portare il cane, Tony. Ok, buona passeggiata al Baobab, allora. Abbassa appena, Tony, troppo amplificato, Così, va bene? Ah, faccia i mostri. Dai, che già va bene, to, così va bene. 1, 2, 3, la gallina. Così va bene, se non ti parla un po' andava. Questo è troppo basso però. No, guarda che è troppo basso, è fuori la radio. Comunque già va bene, la microfono. È un gioiello sta qua. Questo non lo do a nessuno, chi lo vuole insieme al baracchino e lo do 1900 euro. Ma vai, ti sono la Galaxy, dopo la terrazza non sai altro. Sì, c'è quello famoso, come che è programmato tutto a me. Ma se non funziona, non sapete. E la Vittorio lo sa. Ma lascia perdere, non ne vale la pena. E allora lo prendo fuori con piccolo difetto, ecco, piccolo. si può riparare, quanto è 100 euro, dai? Purtroppo io che ci può, c'è un problema che non va, lo sai, ricezione. Mi sembra che in trasmissione non va, in ricezione sì. Mi sembra, non lo ricordo. Ma io non lo so, ma provate la cosa là. Eia. E così qua. Ma adesso non c'ho il microfono questa radio io. C'ho lo spinotto ma non c'ho il microfono. Lo devo adattare con il microfono. No, non io ne chiudo. A me di dire fai prima. Sì, sì, dico, lo do una cazzata perché non ho un microfono. E c'è un piccolo difetto, forse è partito al finale. No, cioè non lo dico. A quello basso lo vedo, dai. Dico, non ho il microfono. Lo vendo per 120 euro. No, 120 no, ma almeno 100 euro sì. Vabbè, 150 dai. Cazzo, tu sei una farmacia. E aumentate il latte, Emanuele. Sì, adesso che è aumentato. Vediamo un po' se è arrivato Marino. Marino? No, sta sempre più guardando Marino. No, no, già fatto, già fatto. Oh, cioè, dalla bambina di lavoro, no, dalla passata da mente, capito, mi trovavo già parte. Adesso l'ho presa e l'ho spesa, là, lo sono da fuori, tutto a posto, bene, da c'ho il cambio, intanto, là, una volta la vada. Quello che abbiamo fatto ogni giorno con la roba, con tutte le sabocchie che abbiamo oggi da soli, davanti sono io. Capo, io l'ho fatto stamattina presto, alle 7. Pomeriggio me l'ho tolta, era bella asciutta, tutta bella sistemata, messa a posto e stirata. Cosa vuoi di più? Dice, ma non è, poi mi sono rimasti i due portatili, il Baofeng e quella a fare là, ho chiamato Gio Maria. Due elementatori, poi c'è un ricimitore, poi due computatori da terra. Già mi va, sai che cavolo, boh. Ma non c'avevi due portatili? Tu hai detto due portatili dall'inizio. Ah, io ho capito quelli di Bafa, ho capito. Quello dopo, due portatili con l'altra canale, già sono belli. Ma quello, almeno uno tieni però. Via. Se mai vedo quello che c'è l'altra la telescopi che è un alluminio, che è ferro, è bianco, è un barazzone. Quella con la marcia allo Smith è quella? Sì. E vedi, quello è bello. Ma io te lo compri, c'è il 50 euro. Che è una farmacia, Mari? Cos'è? Simon o prima non sai? Quale ricevitore stavi dando, Tony? No, ricevitore, io sto dando il coso portatile. Ma un break c'è stato? Avanti, la buonasera. Breto! Sì. Come la faccio io, zittore? La prendi vicino da Branco Cassone. Buonasera a tutti. Ciao Marino, ciao Manuele, ciao Tonino. Ciao Tore, mi hai sentito? Altrettanto. Manuele, hai sentito cosa ti ho detto, sì? Sì, ma non ci faccio caso, perché se vengo lì ti fucilo, Ti prendi, signor Marino? Era ora, mi ha fatto ieri. Dove ti ho sentito? Io vedi, fuori all'estero io. Ah, in PMR ero, insieme a Battigio e a Gio Maria, Graziano e altra gente. Sì, dai, noi siamo dove qua. Ma Battigio è andato via, no? Ha chiuso. E voi c'era gente. Dove c'era gente, avanti con noi. Va bene così. Comunque, schiaccia il microfono, Tore. Abbassa la voce. Cioè, torna col problema del microfono, Tore. Torna il problema col microfono, e allora domani lo dovrò aprire. Mi schiaccia senza modulare. Senti, Marì, se lo senti anche tu, vai, Tore. Difendeva. Sì, sembra che sta piovendo, veramente, fa quel rumore che gli faccio fa prima. Esatto, esatto. Paolo. Vabbè, domani lo torno a controllare, a vedere se torna a spezzare il coso. Ma poi risparmi le butte da domani mattina. Ma siamo le 1060, tanto. Ma se ci va bene prima, ma che mai scendi dalla Russia? Cosa ne so? Vai, Mari. E ti do fondo se proprio, insomma, che sta piovendo. Bene, allora, attenzione. Un rapiballo è entrato, mi. Che cazzino? Oh, Maria! La buonanza dove è arrivata? Ah, colino che coto! E che si perdeva male? È un gioco, caremmi, è un gioco! Ma chi è entrato pure con BMR è entrato? È un gioco pure, care! Dove è Micio? E chi è? Ma chi è? Ma che Mario più fa la scala? E allora non ti puoi immaginare chi è? Ah, me lo posso immaginare io! E il malfriend, Manuel? E già lo sai del mappo, io non faccio un malfriend. Tu sei un buffet. Ma la barba c'è, Manuel? No, no, mi sono lasciato, da te sapiri. Manda lei. Ma che tu se ne è pirato, vero tu? Me non mi vedi fare da mari. Sono da mari, devo dire che io. Mi sono pirato, anche io mi sono pirato. Sono tutto bello, lucido, lucido. Anche a me mi ha fatto un gambo, liberi, ma lui mi ha fatto lucido, romanza. E la lì? Ma lui, la lì che mi ha fatto? No, non ha più di che questo, prima era un piccetto, io la cadeggio. Ah, prima me l'ha fatti, quando è agosto, due mesi fa, me l'ha fatta le cazzo di cane, ho detto fammi la faccia se le fate. Andate, andate, guarda. Vito, se vuoi fare i capelli, c'è Emanuele, la macchinetta, Torino, è un bravo barbiere, fa tutto. No, me ne posso io, ce l'ho anch'io la macchinetta, me ne posso io. E come fai a fartele dietro, lo so? Quello è il problema di tutti. Quello è il problema di tutti. Ti metto un bello specchio grande grande dietro. Anche. Però c'ho, ormai ce la faccio fatto l'ho logato e so come ti baciarlo. Ci vuole due spicchi, uno davanti e uno dietro. Quello dietro è grande grande, perché giustamente vedo i punti erroni dove non l'hai fatto. Infatti Emanuele lui da solo non si riesce a farseli. Oh, non per nascino. Non ci ha abituato lui ormai. Come fai, scusa, c'è la storia, come fai a fare dietro, ma... te l'ha detto Tonino, ti metto uno specchio dietro e poi guardi lì. Piano piano ti passi la, però io lo faccio anche senza lo specchio. E tu sei già speciale, sai, sei mani magiche. Cosa mi sono inserito? Allora sei noi. Sono magiche, in casale, in calofferia. Oh, non si deve fare prima, eh. Io non lo dico, fai prima. Io si dice con il suo amico, Tore, forza. Si toglie la testa e fa capelli di mezzo e poi si attacca. E si attacca al bugiardoggio. Beh, siamo andati. No, adesso comunque, ho si abituato giustamente, detto. Quindi ti passi la mano, vedi un po' lunghetti, ci passi la macchinetta, insomma. È una procedura un po' lunga perché se non ti metti specchio devi fare più forza così. Mentre invece con due specchi, uno davanti e uno dietro, vedi perfettamente bene. Sì, quello sì. Ah, entra nella bagna che ve ne sono due, una da Sardaredo e fai prima. Ma devi guardare che c'è quasi dopo lì. Anche così. Devi controllare quale testa devi tagliare, guardare, capito? La sorte, io. Non ha più dal diavolo nel saio. E devi stare attento, vero Emanuele? Marino, ma già fame e volta la mattina, si alza presto, non può fregare alla gente. Allora, ragazzi, 7:30, io mi devo preparare in toilette, perché alle 8 mi chiama Monica. Signori e signori, state bene, buon proseguo, alle prossime. Ciao Tore, ciao Marino e ciao Emanuele. Ciao ciao. Aspetta, ora non viene giù Monica, poi va a fare sua prenderla. No, tranquillo, c'è la macchinetta, lì viene da un paesino vicino, non c'è problema. Ciao, che culo che sai, ciao Tore, perché zitto, a domani così. Ti raccomando, ti raccomando, non mi fai fare molte figure, avanti Emanuele. Sì, ma lo curo io, non ti preoccupare, è pure la sua cosa, se la vuoi te la do un pezzo. Ciao Tony, ci sentiamo, vai dritto. Ciao Tonino, stammi bene. Andiamo, beh, andiamo, devi riprendere la Manuel. Assolutamente. avanti quel microfono, ma non è che dalla, dal coso, ma dalla, dal volume. Guarda a vedere. Sì, ma adesso piove, si sta facendo, te non ha quel problema là. Non è, la modulazione è bella, però senti questo sottofondo, questo, questo ronzio. Mari, Mari. E domani spruzza un paio di spruzzati di coso, di quel prodotto, probabilmente che ci sia un po' di polverina, un po' qualcosa. Avanti, Tore. Guarda a vedere adesso. Guarda a vedere. Niente da fare, rumore. Tu non lo senti, Mari? No, no, adesso lo sento più forte il rumore. Perché avrà inserito il processore. Non c'entra nulla, no, con il processore. Con il processore non c'entra nulla. Ehi, ma è più forte la modulazione. E aumenta il rumore, la volta. Boh, non lo so. Domani mattina me lo ricontrollo. Domani così fa. Un rubinetto sembra. Cos'è, Mari? Sembra un rubinetto con l'acqua. Esatto, del genere. Non lo so, non so cosa gli ha preso. È più di una settimana che non lo adopero. Perché se non c'è quel rumore lì, la modulazione è perfetta, bella chiara. E domani mattina controllo il microfono a vedere. Perché l'amplificazione c'è, la modulazione va bene. È solo quel cavolo di fruscio che ti fa. Guarda, Mari. Ok, è un gasotto. Adesso saliamo un po' su. Saliamo un po' su. Proviamo sopra, Manuele. Dammi la frequenza. Dimmi dove vuoi andare. E i gemmiardi, così sarà anche il tono. Dove vuoi, dai. Vai 27.405. Ciao, dai, con la frequenza. Arriva.